Angolo B. Sono le 8:58 minuti, riprendiamo la linea da Bologna dopo il mattino di Popolare Network. Di nuovo buongiorno cari ascoltatori, questo è Angolo B. Grazie a Leila che ha scritto durante il mattino di Popolare Network al nostro SMS 348-7649-289. Facciamo allora un attimo un passo indietro, si parlava di formigoni e Leila dice, me lo chiedevo anche prima ma magari la mia era una visione distorta, ora possiamo chiederlo ufficialmente, come ha fatto uno come formigoni a crescere all'ombra della chiesa? Ci scrive Leila. Beh, giornata di fibrillazione oggi quella che ci sarà in Lombardia, ma lungo la linea che va da Milano a Roma, perché il presidente della regione Lombardia è a colloquio con i vertici del PDL. Finirà questa monarchia, perché poi Formigoni è lì da 15 anni. Hey, things won't be strange. Tutto questo però lo abbiamo analizzato fino adesso, da adesso in poi invece parliamo della fusione tra Hera e Acea Gas. Nascita della più grande azienda multiservizi del nord, un operatore molto forte, molto solido, c'è scritto sul sito di Hera, ma anche una questione che sta ponendo qualche contraddizione alla politica, diciamolo pure. La maggioranza in consiglio comunale a Bologna si è spaccata, ma ci sono tanti comuni che votano no. Uno di questi è anche molto vicino a Bologna, ed è il comune di Sasso Marconi. Parleremo col sindaco Stefano Mazzetti più tardi, verso le 9:15, e vi vogliamo proporre anche un'intervista al sindaco di Forlì, Roberto Balzani. Forlì non è proprio un comune piccino, anche se detiene appena l'1%, poco più dell'1% del pacchetto azionario di Hera, che ricordiamolo, insomma, è sempre una società a maggioranza pubblica, e dal comune di Forlì è arrivato un sonoro no con argomentazioni molto forti. Proveremo poi a sentirle tramite la voce del sindaco Balzani. Partiamo subito con l'analisi ai nostri microfoni, tra poco un economista, Massimiliano Marzo. Vogliamo però iniziare da una scheda per, insomma, mettere qualche puntino sulla I. Allora, la fusione di Hera attraverso questa scheda a cui ha prestato la voce Riccardo Tagliati. Sarà efficace dal 1 gennaio 2013 la fusione tra Hera e Acea Gas APS. Sul piatto la nascita di una maxi azienda multiservizi che, come recita il sito internet di Hera, potrà contare su un valore della produzione superiore a 4,5 miliardi di euro. Sarà il primo operatore italiano per rifiuti trattati, il secondo per volumi di acqua venduti, il terzo nella distribuzione del gas. Questa nuova realtà, recita sempre il sito di Hera, avrà una dimensione, una solidità che potrà agevolare ulteriori fusioni. Ci sarà un miglioramento della capacità di investimento, di efficacia e di qualità del servizio sui settori regolati e su quelli a mercato. Il presidente del consiglio di amministrazione sarà scelto nell'ambito dei membri designati da Trieste, l'amministratore delegato nell'ambito dei membri designati da Padova, mentre Hera nominerà il direttore generale. E fin qui abbiamo letto cosa ha scritto Hera. Ma sui settori regolati, come quello idrico, sono molti i dubbi dei detrattori della fusione che temono un progressivo disimpegno sui servizi pubblici per eccellenza. I dubbi sono autorizzati se si pensa ad esempio a quello che è accaduto con i rifiuti. A Bologna finora il porta a porta è stato disincentivato e nonostante le valutazioni della giunta, le raccolte di plastica e carta partite in centro storico aumenteranno di poco la percentuale da Roma Capitale che c'è sotto le due torri. E fin qui abbiamo voluto, insomma, dare qualche dato su questa fusione tra Hera e Acea Gas APS. Vi ricordiamo, sarà proprio effettiva dal 1 gennaio 2013. Diamo il buongiorno al nostro primo ospite, il professor Massimiliano Marzo, economista dell'Università di Bologna. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, professor Marzo, lei ieri ha scritto un fondo, un'analisi sulla Corriere di Bologna. Cosa c'è oltre gli stereotipi? E in questo fondo lei analizzava sostanzialmente la debolezza della politica di fronte a questa vicenda. Proviamo a farlo capire agli ascoltatori. Ma il punto fondamentale che intendevo sottolineare è che la politica non vede quali sono in verità i reali problemi del rapporto, diciamo, tra Stato e mercato e dei problemi relativi alla regolamentazione dei servizi pubblici, perché non è con il bloccare le operazioni di fusione e acquisizione o in generale bloccare operazioni che hanno un respiro di carattere economico importante che si raggiungono i risultati, ma piuttosto è modificare completamente l'atteggiamento di fronte al sistema economico nel suo complesso. Perché il punto delicato della faccenda è che ERA, ACEGAS e queste municipalizzate operano servizi, non dico in concessione perché sarebbe dire troppo, servizi che sono di interesse pubblico, ma non per questo debbono essere di proprietà pubblica. Quello che è cruciale è che lo Stato si attrezzi con un sistema di controlli legali molto stringenti affinché costringa le aziende a fare veramente gli interessi dell'utenza e non gli interessi esclusivi di del grande capitale o della finanza. Questo è il punto. Ma non è bloccando, è semplicemente avendo un atteggiamento completamente differente. Ecco, allora, visto che la storia di ERA ormai ha 10 anni, insomma, perché la nascita della multiservizi, che chiaramente in questi 10 anni si è anche ingrandita, ha ormai una storia alle spalle, cosa possiamo dire, professore, dell'atteggiamento dei comuni, dei soci pubblici verso ERA? Perché da più parti, poi le proporrò anche una riflessione del sindaco di Forlì, Roberto Balzani, Si dice che non è stato proprio così attento il socio pubblico. Io su questo punto sono d'accordo, nel senso che il socio pubblico in molti casi si è comportato come un azionista normale, come un azionista privato, diciamo così, forse un po' a volte consapevolmente, a volte inconsapevolmente, ma il punto delicato della faccenda è che, torno a dire, è il tema dei contratti di servizio. Pensiamo a questo: queste società multinazionali, queste società, diciamo, sono ormai quotate in borsa, sono dei colossi, possono avvalersi di servizi legali di primissimo ordine, nazionale ed internazionale, e i comuni come fanno? I comuni hanno, come dire, personale sicuramente qualificato, ma non hanno quel personale che ha quella capacità di vedere tutte le sfumature in un contratto di servizio che pure ci devono essere. E allora, se la neve non viene rimossa dalla strada, non è perché il sindaco è cattivo, ma molto spesso perché c'è un problema nel contratto di servizio. E allora, è qui il tema. Poi è certo che andiamo a vedere anche la commissione. Non si può nascondere una cosa molti dei membri dei consigli di amministrazione di queste società, nominati dal settore pubblico, eccetera, bisognerebbe andare a guardare quali sono le reali competenze di queste persone. Perché vede, quando io dicevo la debolezza della politica, dicevo in generale che la politica rifiuta l'approccio competente ai problemi e ancora una volta si arrocca su delle posizioni che sono legittimissime, ma non sono posizioni che servono veramente alla collettività. Ci siamo. Quindi allora torno a dire, se il pubblico costringe le aziende con contratti di servizio efficienti, i problemi si risolvono. Il problema è che non lo ha fatto fino adesso, un po' consapevolmente, un po' inconsapevolmente, e chiediamoci se lo farà nel futuro, se i dibattiti politici sono di questo tenore, io è molto probabile di no. Ascolti, ecco. Professor Marzo, le propongo un primo pacchetto di minuti, insomma, della riflessione che abbiamo fatto col sindaco di Forlì, Renato Balzani, che coglie nel segno su alcune cose che proprio lei sta dicendo. Ci sentiamo tra poco. Prego, prego. Noi non abbiamo dubbi dal punto di vista imprenditoriale sull'operazione ERA-ACEGAS, che sicuramente è impostata per dare la massima soddisfazione agli azionisti e per sviluppare l'impresa sotto un profilo industriale e finanziario. Quindi sotto il profilo dei percettori di rendita non ci sono rilievi. Però c'è anche il fatto che noi non siamo solo questo, ma siamo anche azionisti rappresentanti del pubblico, e come tale il nostro obiettivo è anche quello di spingere la nostra azienda, che in teoria controlliamo come soci pubblici, verso delle politiche ambientali che riteniamo siano in linea con quanto abbiamo promesso ai cittadini durante la campagna elettorale e sulla base delle quali delle cui promesse abbiamo poi preso i voti. E in questo caso devo rilevare che il rapporto con l'azienda non è affatto semplice, nel senso che le visioni di un ambientalismo diciamo così razionali, che sono quelle che noi cerchiamo di portare avanti, non siamo riusciti a farle passare, nonostante abbiamo confermato col patto di sindacato, con l'adesione al patto di sindacato, la nostra fiducia in questa governance pubblica. Queste sue valutazioni probabilmente non ci portano anche a dire che in questi anni la governance pubblica è stata poco incisiva. Gli altri enti locali e anche chi ha molte più azioni, in questo senso penso anche al Comune di Bologna, non è stato sufficientemente incisivo a questo punto? Io credo che ci siano delle ragioni di carattere oggettivo. ERA è una, diciamo, una grande società con un management di primo ordine e dei tecnici molto bravi. Nel corso di questi anni le nostre amministrazioni si sono spogliate di saperi tecnici interni in grado di effettuare un vero potere, di esercitare un vero potere di regolazione e di programmazione, qual è quello che prevede la legge. E di conseguenza sono andate a traino del gestore, poiché ritenevano che il gestore, essendo in primo luogo controllato dal pubblico, si muovesse in un'ottica di interesse pubblico tout court. Non sempre avviene così, cioè nel corso di questi anni è cambiata la politica ambientale degli enti locali, è assolutamente visibile questo rispetto a 10 anni fa, ma la politica industriale di ERA invece non è cambiata. E di conseguenza si crea una asimmetria di posizioni anche sotto il profilo proprio meramente tecnico della discussione sul merito, che rende la componente pubblica fatalmente soccombente. In un certo senso i comuni in tutti questi anni sono stati un po' troppo distratti in attesa solo della redistribuzione dei dividendi azionari, questo un po' ci sta dicendo anche. Prevalentemente sì, con questa specificazione che alcuni comuni hanno in qualche modo deliberatamente scelto di essere azionisti di peso, anche conferendo le reti, e quindi cercando poi da azionisti di ottenere dall'azienda, sul tavolo aziendale, delle negoziazioni favorevoli. Ci sono altri comuni come il nostro che le reti se le sono tenute, sono rimasti più piccoli come azionisti, ma che però non rinunciano ad esigere comunque dall'azienda una gestione che sia compatibile con quelle che sono le politiche pubbliche che sono state poi scelte dai cittadini. Ecco, così il sindaco Roberto Balzani, l'intervista poi prosegue e ve ne proporremo in seguito un altro paio di minuti. Professor Marzo, in questo ultimo passaggio il sindaco Balzani diceva ci sono state scelte diverse, noi ad esempio a Forlì non abbiamo conferito le reti, questo servizio idrico. Secondo lei questa è una strada, cioè almeno quello che ha fatto Forlì è interessante? Sì, è sicuramente interessante, ma non è dirimente, nel senso che anche questo è un punto, sicuramente hanno fatto bene, dal loro punto di vista hanno fatto bene, ma è anche coerente l'idea di volere, perché come dire, non possiamo tirare la coperta, perché da un lato c'è chi dice è giusto che i comuni abbiano una partecipazione azionaria rilevante in queste imprese, e questo è una cosa. Dall'altro c'è chi dice non ci interessa la partecipazione, vogliamo gestire noi. Il punto è quanto costa al comune di Forlì gestire la rete? Questo è il tema. Allora io dico in maniera semplice, e questo guardi è un principio generale, non vale solo per ERA o i servizi di erogazione dell'acqua o di pulizia strade, cioè, ma vale anche per tanti altri servizi. Cioè il punto è, lo Stato è in grado di gestire le cose concretamente a bassi costi? Sì o no? Se sì, benissimo, se no deve far fare ad altri, però con un limite, con un vincolo, che deve essere in grado di controllare e di mettere veramente il dito nella gestione. Cioè, mi spiego, quando io dico facciamo pure la fusione ERA-CEGAS, però facciamo anche un contratto tale per cui se sgarri di un millimetro io vado sul mercato, perché andare sul mercato non vuol dire andare nella giungla, andare sul mercato significa tenersi le mani libere, tutti, da tutti e due i lati, anche e soprattutto il comune, perché in una condizione come quella che siamo adesso, in cui un comune ha una partecipazione rilevante, qual è l'interesse del comune a dire a quell'azienda che non fa bene il suo mestiere, a dirgli, bene, sai cosa c'è? Adesso la gestione la facciamo fare a un altro. È chiaro che questo è un conflitto di interessi. Allora, il tema è, non dobbiamo avere paura del mercato se ci sono le regole fatte bene. Il problema è che in Italia noi non abbiamo la cultura delle regole di mercato. E questo è il problema. Ed è per questo che abbiamo paura di tutte queste cose. Ripeto, la scelta di Forlì è una buona scelta, però è una scelta che si giustifica per una città piccola come Forlì, mi spiego. Per una città più grande non sono sicuro che questo sia fattibile al 100%. La scelta migliore. Esatto, dipende. Io credo che comunque ci sia, sia necessario un accordo economico serio. E poi, ripeto, bisogna che la politica faccia un salto di qualità. Non c'è questo salto di qualità, ma perché non c'è anche nelle menti dei cittadini. Dobbiamo veramente capire che non c'è più, come dire, l'epoca delle soluzioni facili è finita, definitivamente, ok? Quindi abbiamo di fronte scelte importanti, però proprio per questo le sfide sono importanti e bisogna attrezzarle. Non bisogna fare le cose come si facevano 50 anni fa, il mondo è cambiato. E quindi anche nella discussione, nella contrapposizione politica, Marzo, mi sembra lei sta chiedendo uno scatto in avanti che vada oltre. Ma da questo punto di vista non da adesso, è da quando, come dire, ho iniziato la collaborazione di editorialista del Corriere, che io chiedo alla politica uno scatto in avanti. E la politica, almeno a livello nazionale, a volte ci sono questi scatti, a volte non ci sono, ma a Bologna siamo molto indietro ancora, molto indietro. Ci fermiamo qui, professor Marzo, la ringrazio molto. Grazie a lei, grazie. Grazie e buona giornata. Insomma, la visione è d'insieme, perché si andava ben al di là della questione puramente di analisi, no? Sulla fusione ERA-CEGAS dell'economista Massimiliano Marzo. Ci arriva anche un messaggio al 348-7649-289 che però attendo un attimo a leggere perché si deve comporre. Eccolo qua, si è composto. Ci scrive Stefan: l'approccio competente le cose da parte di un politico che ha il compito e a volte la competenza di creare consenso è di contornarsi di tecnici competenti per decidere nell'interesse del bene comune. Questo troppo spesso non si fa. La competenza di Montezemolo è di essere un proprietario che difende i suoi soldi e dà fior di consulenti attorno a sé. Quindi Stefan ci fa questo esempio. Continuiamo a parlare della fusione ERA-CEGAS. Avete sentito da una parte le parole del professor Marzo e dall'altra quello che ci ha detto il sindaco di Forlì, Roberto Balzani, per motivare il no del Consiglio Comunale di Forlì. No che, vi ripeto, arriva proprio dal sindaco in primis e dalla sua giunta. Tra l'altro vi voglio leggere la chiusura dell'intervento del sindaco Balzani in Consiglio Comunale a Forlì martedì scorso, perché consapevole ovviamente che questo no ha un significato politico, perché ovviamente non rallenterà la fusione. E Balzani ha detto di fronte ai suoi consiglieri, agli assessori e ai cittadini: noi non ci illudiamo, non finirà come nel Ruggito del Topo, un celebre film satirico e pacifista con Peter Sellers. Resteremo topi e buonanotte, ma topi liberi pensatori e liberi attori, sì, almeno questo. Insomma, una chiusura di questo tipo ha fatto il sindaco Balzani, a cui abbiamo continuato a fare delle domande nella nostra intervista. Continuiamo a sentire. Di due strategie molto diverse. Il vostro Sassolino magari non bloccherà l'ingranaggio, però pone una questione politica grande come una casa. Ricordiamo anche che comunque l'anno scorso c'è stato anche un referendum che ha determinato un voto netto. Come se ne esce, sindaco? Ma in primo luogo se ne esce sicuramente con un rafforzamento delle competenze pubbliche. Cioè, noi non possiamo pensare che semplicemente un voto o un auspicio o un convegno o anche un happening possono risolvere questa situazione. Qualunque sia la natura dell'impresa a cui si dà in gestione il servizio, sia essa pubblica o privata, o mista come nel caso di ERA, se la parte che deve esercitare la regolazione, la programmazione, non è in grado di farlo, il risultato sarà sempre lo stesso. Quindi, secondo me, i soci pubblici debbono interrogarsi su come costituire a livello regionale o a livello territoriale, a seconda delle risorse che ci saranno, un presidio di carattere tecnico in grado di supportare le politiche pubbliche, gli indirizzi pubblici degli amministratori. Questo per me è assolutamente essenziale, altrimenti anche le posizioni assunte dai comitati per l'acqua pubblica o comitati per i beni comuni sono destinate a restare lettera morta. È stata sofferta questa decisione, insomma, che lei ha portato avanti? È stata sofferta, ma è soprattutto non è casuale, nel senso che è il frutto di un percorso che noi facciamo nella nostra amministrazione da quando ci siamo insediati, cioè da 3 anni. Prima la difesa delle reti pubbliche, poi la scelta per la differenziata spinta, poi il tentativo di costituire, di dar vita a un distretto del riciclo, poi la presentazione di una legge regionale per la società post-incenerimento, per una fiscalità ambientale a favore di forme alternative di smaltimento dei rifiuti. È un percorso lungo che ci ha portato fino a qui. E quindi noi in qualche misura prendiamo qui, diciamo, lo consideriamo una tappa di questo percorso, poi naturalmente noi andremo avanti con le nostre tesi. Si sente un po' isolato all'interno del PD? Ma devo dire che dal punto di vista del dibattito interno al partito su questi temi, queste posizioni che portiamo avanti sono largamente condivise dalla base e anche negli organi regionali, nelle commissioni. È la prassi che si distacca tendenzialmente da questa, diciamo, teoria. Così Roberto Balzani, il sindaco di Forlì, sindaco del PD, che ha detto no alla fusione tra ERA e ACE Gas, un altro comune che ha detto no, con un comportamento diverso, nel senso che lì la maggioranza si è astenuta, è quello di Sasso Marconi. Buongiorno al sindaco Stefano Mazzetti. Buongiorno a lei. Allora, innanzitutto, sindaco, visto che la sua maggioranza si è astenuta, le chiedo di spiegarci il perché di questa astensione. Sì, mi ringrazio dell'occasione di poterlo spiegare. La cosa è abbastanza semplice. Nel merito, largamente la maggioranza condivideva la fusione e l'operazione finanziaria, che a mio parere non è discutibile dal punto di vista finanziario, perché è un'operazione che rafforza la società. E questo lo dice infatti anche il collega Balzano. Esatto, su questo io penso che la discussione, mi dispiace perché non è d'accordo, ma sia abbastanza incomprensibile per chi abbia un minimo, insomma, di conoscenza economica e finanziaria. Avevamo un problema, diciamo, di metodo, in particolare al fatto che noi avevamo votato al momento della votazione del patto sindacato un ordine del giorno integrale al patto di sindacato come maggioranza, perché la minoranza ha votato contro anche questa formula, in cui chiedevamo una serie di cose, di indirizzi al nostro gestore. Non avendo avuto una risposta formale alla questione, abbiamo ritenuto opportuno tenere un voto di astensione, che è esattamente un voto di astensione, cioè nel merito siamo d'accordo, ma nel metodo aspettavamo una serie di risposte che sono complementari anche a poter dare una risposta positiva. Ecco, su quali temi, insomma? Ma guardi, su temi di indirizzo generale, questo è Comune di Sasso Marconi, insomma, alcune posizioni, insomma, sulla raccolta differenziata, sul riciclo dei rifiuti, sulle perdite dell'acqua, insomma, alcuni temi che secondo noi andrebbero rafforzati e portati con una certa, come posso dire, in modo più esplicito, il nostro gestore dovrebbe sposare, insomma. E quindi quelle cose lì per noi sono importanti, fanno parte anche degli indirizzi della nostra amministrazione, quindi la maggioranza del Consiglio aveva espresso quel voto, io penso sia stato coerente, giusto, mantenersi in coerenza con quello che il Consiglio Comunale aveva votato, insomma, al di là delle posizioni in merito all'operazione. Senta Sindaco, le volevo chiedere questo, ma voglio dire, perché questo voto sicuramente ribadisce quello che lei ci ha detto, no? Però perché non rimanga solo un voto e comunque insomma sia qualcosa che poi dà pressione verso il gestore che sarà ancora più grande dal 1 gennaio 2013, perché sarà una maxi multiservizi, e che cosa si può fare, nel senso che sì, il comune di Sasso Marconi sostanzialmente sta dicendo ad ERA che non ha delle gran politiche per la raccolta differenziata, mi permetto di fare questa sintesi un po' grossolana, ma perché poi le faccia veramente? Il comune di Sasso Marconi, come altri comuni, sta andando in una direzione, chiede al suo gestore di andare in quella direzione, gli organi dove si possono fare sono gli organi societari, quindi sono all'interno della governance che si decidono queste cose. Essendo una società pubblico-privata, e per fortuna pubblico-privata, per cui le governance internamente possono decidere queste cose. Devo dire, come ho detto, vi ho scritto in quel documento, che per quello che riguarda la raccolta differenziata sono stati fatti dei passi avanti, insomma, nel senso che stanno partendo anche altri comuni con il porta a porta, anche Bologna è cominciata a partire, per cui secondo me si sta avviando un percorso positivo. Penso che ognuno, per quelle responsabilità che ha nel suo piccolo, debba comunque provare a portare un messaggio in questo senso. Sindaco, le propongo una mail di un ascoltatore che fa riferimento a quello che ha detto prima il professor Marzo, un economista che è stato nostro ospite, però il professor Massimiliano Marzo. Esatto, però secondo me insomma anche lei può essere assolutamente... È un mio amico d'infanzia. Fa piacere. Allora, scrive Marco, quando vendo la mise professor Petrella alla presidenza dell'acquedotto pugliese ottenne le sue dimissioni qualche mese dopo, e per il semplice motivo che una SPA deve essere orientata al profitto per i soci pubblici e quelli privati, e se non lo fa il suo management può essere chiamato a rispondere in sede legale. L'idea che si possa gestire la finanziarizzazione dei beni comuni con la governance pubblica è nata negli anni 90 e fallita negli anni zero, facendo maturare le convinzioni che si sono trasformate in un 1,5 milioni di firme per l'indizione dei referendum che sono stati poi vinti. Continuare a promulgare questa visione delle cose non aiuterà a cambiare il paradigma di gestione, che non è pubblico ma come bene comune partecipato. Cosa ne pensa lei da primo cittadino? Insomma, questa devo dire che è una spaccatura, mi sembra un po' più grande di quella che può essere il comune di Sasso Marconi. No, però, ma dico... No, mi è chiarissima la domanda, certo. Dicevo, nel senso, chiaro, questo è un tema un po' complesso. Io sinceramente ho letto l'articolo di Massimiliano Marzo sul Corriere della Sera, che ritengo essere abbastanza, che mi trovo abbastanza d'accordo, cioè il tema è il seguente, io non credo che la soluzione, lo dico così, lo chiarisco, sia la ripubblica, di fare una società tutta pubblica e questa sia la soluzione del problema, non lo so, io penso che sia un po' complicato, credo che il problema stia nella forza della politica di gestire questi soggetti, e allora sono due i temi, uno è come la politica può gestire, e l'altro è il tema della regolazione. Ecco, questo è un tema su cui si può fare un grosso lavoro, e quindi io penso che il tema stia nella regolazione, nel creare le regole, perché queste strutture poi in qualche modo abbiano una forma di confronto con anche altre, con regole, con strutture che le devono controllare delle stesse proporzioni, questo è il vero tema. Aggiungo e chiudo che la rete idrica, per esempio, ha bisogno di una quantità di investimenti e di tali numeri che è difficile pensare che un singolo comune possa gestire la rete idrica, ce lo dico perché... questa è la realtà dei fatti, è un tema molto complesso e su cui io penso noi dobbiamo entrare un po' più nel merito e provare a uscire un po' da quella che è la bagarre politica, perché non serve né ai comitati dell'acqua né a noi che tutti i giorni dobbiamo amministrare il territorio. Chiudo proprio con un'ultima domanda, allora, insomma, perché me la solleva sul tema della regolazione, allora, su una questione così importante come il servizio idrico, dove diciamo non si capisce bene, perché ci sembra anche che negli anni ERA abbia un po' perso, per esempio, per la strada il tema della manutenzione, no? Un po' depauperando anche proprio il lavoro manuale di chi mantiene le reti idriche, come si può porre a livello di regolazione questo tema? Guardi, noi, lo dico in questo caso come ex ufficio di presidenza di ATO, abbiamo fatto un grosso lavoro per quello che riguarda la convenzione con il socio gestore, e una parte di questo lavoro è appunto dato a quello che era manutenzione straordinaria, che era molto alta e nello stesso tempo non sembrava non dare i frutti che noi possiamo vedere sul territorio. Noi credo che lì dobbiamo fare un intervento andando a entrare nel merito di quali sono le manutenzioni e cercando di avere un piano di manutenzioni che c'è, ma che deve essere controllato, perché chiaramente torniamo al punto di prima, cioè come si può fare? Si può fare in un rapporto col gestore dove si entra sempre più nel merito delle cose e dove gli indirizzi poi vengono in qualche modo visti e controllati dagli organi che hanno quella funzione di controllo. Sì, noi abbiamo un tema, uno dei temi che avevamo messo in quel documento è il tema delle perdite dell'acqua, che pur lo dicono, perché sempre per informazione generale, non è che il sistema idrico bolognese sia quello con le perdite maggiori in Italia, io penso sia forse uno dei migliori, però il tema della perdita dell'acqua è un tema che rimane. Allora, in quella convenzione c'era un obiettivo da raggiungere, abbiamo fatto mettere delle eventuali penali per il non raggiungimento. Si dovrebbero creare gli strumenti perché il gestore vada in quella direzione, altrimenti chiaramente la cosa diventa sempre più complicata. Insomma. Ci fermiamo qui e la ringraziamo, sindaco di Sasso Marconi, Stefano Mazzetti. La ringrazio a lei, buona giornata. Salve, salve e buona giornata. Ci ha scritto anche Andrea al 348-7649-289. Sono perfettamente d'accordo con il professor Marzo, da dipendente pubblico assisto da anni ad un progressivo depauperamento delle competenze del personale interno a favore di consulenze esterne inefficienti e legate più ad amicizie partitiche che a vere e proprie esigenze dell'amministrazione. E sempre al nostro numero di SMS ci ha scritto Luciano, la fusione di IRE significa privatizzare dei beni comuni, lo stesso vale anche per le ASP che rischiano la privatizzazione, bisogna ribellarsi, ci ha scritto Luciano. E ancora in chiusura leggo Riccardo che ha scritto a diretta @radiocittadelcapo.it: con questa storia del pubblico che non riesce a gestire i servizi a basso costo, ci troviamo poi ad avere servizi dati in gestione a società con il vincolo del massimo ribasso, con tutto quello che ne consegue. E con la lettura della mail di Riccardo io mi fermo, quando sono le 9:30 praticamente. Adesso arrivano le notizie del GR di Popolare Network, ovviamente ne riparleremo perché questo è un tema su cui torniamo, perché è un tema importante. Entro il 15 ottobre i comuni devono votare, oggi vota Forlì e oggi vota Rimini in tardo pomeriggio, vedremo come andrà il voto perché anche lì nulla è scontato. Grazie, buona giornata. Dopo il GR la rassegna stampa che oggi è curata da Giovanni Dognini. State bene, ciao.